Epilog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Tra me e Jonas c'è stato qualcosa anni fa. Hai avuto una storia con il viscidone. È stata una cosa da niente e non ti conoscevo, quindi... Ah, sei andata a letto con il viscidone. Esilarante. Tutti hanno uno scheletro nell'armadio, tu e Gemma? Ti ho raccontato di Gemma. Gemma era tutta matta. Ma tu non mi hai mai parlato di Jonas? L'ho fatto, ti ho detto di aver avuto una storia a Marrakesh. Jonas è Mr. Marrakesh. È stata una cosa stupida. Ah, credevo che Mr. Marrakesh fosse un tipo spettacolare. Di certo non lui. È successo anni fa e... L'hai frequentato per un mese? È quello che ti ho detto. Però quando mi hai raccontato di Mr. Marrakesh era una settimana. No, non è vero. Raccontami di te. Non la voglio vedere la prima volta adesso. Stai per parlare. Me ne sono andata e ho avuto questa piccola storia che mi ha impegnato la testa. Con questo uomo oggetto a Marrakesh. Grande storia, grande rubacuori. No, è durata una settimana. Una settimana bizzarra. Provate a immaginare tutto ciò che voi avete pensato, immaginato, sognato, visto, possa essere registrato in una sorta di videoregistratore incorporato, qualcosa che avete dentro il cervello, che poi in pratica altro non è in questa rappresentazione che un microchip di cui l'umanità è dotata. Ma è molto interessante, divertente, primo perché i ricordi più belli possono essere messi in una memoria privilegiata, possono essere visti e rivisti, i momenti d'amore, di passione, bei paesaggi. Le riunioni di lavoro possono essere riviste, quindi si sta molto attenti a quello che si è detto, si possono vedere i particolari, quello che dicono, fanno gli altri. Molte volte noi abbiamo un occhio distratto sul mondo che ci circonda, no? Invece possiamo rivederlo, non c'è problema, tanto lo registriamo. Immaginate che questa sorta di possibilità di manipolare la propria memoria riportandola in superficie, guardandolo, possa essere anche proiettata in qualsiasi schermo. Avete sentito queste battute? Beh, una scena di gelosia fra marito e moglie. Lui intuisce che lei ha qualcosa in comune con un amico che hanno visto una serata a cena, insiste e viene fuori e riesce a capire che in realtà c'è stata una storia fra i due. Ma costringendola poi alla fine di proiettargli la memoria su questa storia. Lei non vorrà farlo, dirà che il microchip non funziona. Insomma, il marito alla fine riesce a avere la prova che cercava, come ogni cornuto che se non ha la prova non è contento. Riesce finalmente a vedere il filmato della moglie che mugola come una giumenta in calore sotto questo loro comune amico che le negava anche semplicemente di avere in simpatia. Beh, è una cosa terrificante, voi direte, è una cosa terrificante che ognuno di noi possa comunque avere possibilità di proiettare i propri ricordi e la propria memoria. Beh, è tra le tante cose terrificanti che in realtà vengono allucinate come una prospettiva futura nella serie Black Mirror. Black Mirror è una serie di telefilm di fantascienza del 2011 prodotta nel Regno Unito. In Italia l'hanno vista quelli che guardano Sky le prime due stagioni, ma in realtà sono quattro stagioni con 19 episodi, uno speciale poi fatto a Natale, in cui viene proprio presentato questo mondo del futuro. Ma è un futuro prossimo, non è un futuro lontano, perché in fondo le persone sono vestite come noi, apparentemente non hanno strumenti del vivere quotidiano molto più sofisticati quelli che usiamo noi, hanno case molto domotiche, hanno apparecchiature molto più sofisticate, come se avessero dei telefonini di generazione, avessero un iPhone 14, ecco, mettiamo così, rispetto a quello che abbiamo noi, niente di tutto questo. Però nella serie, in queste puntate, vengono mostrate quelle che sarebbero le derive di alcuni nostri modi comuni di vivere, quello che noi affidiamo oggi alla tecnologia senza renderci conto che stiamo avendo una mutazione genetica, in Black Mirror diventa realtà e ci fa vedere fin dove possiamo arrivare. Voi direte perché ci fai questo discorso? Perché io questa mattina vorrò parlare con voi, con delle persone che stanno assieme a me, tra qualche istante, delle nuove forme di vedere la televisione. Black Mirror, io me lo sono rivisto sotto le vacanze di Natale più volte. Perché? Perché avevo la possibilità di vederlo tramite Netflix guardando tutte le puntate una dietro l'altra. Mi sono sparato le quattro serie fra un Bianco Natal e un Alleluia e un cappone squartato agli altri. Io stavo sul divano davanti alla televisione e guardavo le serie. Una nuova maniera di concepire la televisione, una nuova maniera di guardare la televisione. Non più la televisione come l'accompagno verso l'abbiocco postprandiale della televisione generalista. Uno si mette davanti a Giletti, fa un ruttino e si addormenta, si abbiocca. E quello è pubblico che conta per l'auditel. Uno si guarda anche tipo 10 puntate di una serie, rubandosi tutta la giornata, isolandosi dal mondo, divertendosi un sacco o non pensando, che in fondo anche questo è molto importante. A tra poco. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus. Melog. Cronache meridiane. La sai una cosa? Credo che io probabilmente gli piacessi e non era poi così terribile. Forse in un'altra vita, non lo so, ma non è successo niente, assolutamente. E Jonas, è un'avventura del passato. Cosa c'è di male? Non farne un dramma. Oh, ne sto facendo un dramma? No, voglio dire che... Certo, è fantastico pensare che a volte tu sei una puttana. Scusa, non volevo. Sei una puttana. Potresti cancellare questa parte. Sei una puttana. Ho detto a volte. Non puoi tagliare solo quello che ti pare. Ho detto a volte. Naturalmente sulla memoria individuale si può anche operare. Si possono cancellare alcune cose, altre se ne possono lasciare in memoria. In questo caso ha voluto cancellare la valutazione sulla... sul costume etico e morale della moglie, perché gli aveva messo le corna. Però non è tanto l'episodio in sé, in quanto mi interessa capire quanto l'idea che il telefilm sia uno strumento di lettura della contemporaneità, uno strumento forte, uno strumento potente, soprattutto le serie che non sono prodotte in Italia, non sto parlando di Don Matteo naturalmente, o delle storie dei papi, che sono le nostre più pregiate produzioni italiane, come pure le storie di Mafia e Camorra, che raccontano noi, raccontano una sorta di nostra residuale sensibilità, da una parte la credenza religiosa, la superstizione, il culto dei santi, d'altra parte le storie di sangue, di coltello e malavita, ecco, sono le cose che in fondo hanno sempre rappresentato il nostro immaginario. Ho due ospiti questa mattina con i quali vorrei proprio commentare questa nuova televisione, che poi nuova non è, già una televisione ormai di seconda, terza generazione, è nuova perché oggi se la guarda attraverso delle forme di fruizione diverse, che nemmeno la TV satellitare in fondo rappresenta la punta più avanzata, perché anche su Sky gli episodi bisogna guardarli secondo la scansione che ci dava appunto Sky. Oggi te li vedi in rete, li vedi tranquillamente, te li vedi a casa, non hai più voglia di vederteli a casa, te li vedi nel computer d'ufficio, perché il bello di Netflix è che basta una password per entrare. Giancarlo Liviano d'Arcangelo, buongiorno. Buongiorno a voi. È uno scrittore, ha pubblicato vari saggi, è stato anche nostro ospite, tra cui L'invisibile è la tua vera patria, un reportage sul declino dei luoghi e della vita dell'industria italiana che non c'è più, e poi Gloria agli eroi del mondo del sogno, Il saggiatore, dedicato al calcio. È un grande osservatore della realtà contemporanea, osservatore dei media, è un appassionato fruitore di telefilm. Passi molto tempo anche te. Sì, assolutamente, anche perché proprio qualche anno fa è venuta fuori l'idea che la narrazione televisiva, quella delle serie TV, stesse sostituendo per l'appunto la grande narrazione romanzesca, per cui da addetto ai lavori era molto sensato ed era giusto andare a conoscere di persona tutti i prodotti. Sono storie più interessanti nei telefilm che nella scrittura più pubblicizzata. Beh, assolutamente, io penso che in questo momento le serie televisive effettivamente diano, quando sono fatte con una certa qualità e quando hanno un respiro tale da poter appunto restituire quell'intervallo di risonanza sulla contemporaneità che ci permette di capirla, siano assolutamente dei prodotti molto importanti. Mi viene in mente qualche anno fa una serie televisiva americana che è stata molto premiata e che si chiama The Wire, la quale raccontava serie dopo serie tutto il funzionamento della società americana degli anni 2000, perché appunto parlava in una stagione di come funzionano le elezioni politiche, in un'altra del traffico di droga, in un'altra ancora del funzionamento del porto, in un'altra ancora del funzionamento della scuola. Quindi riusciva a coprire tutto l'arco narrativo del funzionamento di una città importante come Baltimora e la spiegava nei minimi dettagli con grandi accelerazioni narrative, e effettivamente era un prodotto molto arricchente che aveva la capacità di rappresentare il mondo con la forza di un romanzo corale. Poi il vantaggio di queste serie è c'è una ricostruzione storica sempre perfetta. Noi siamo abituati ai medici fatti di carta pesta che sembrano fatti in casa, sembra la mascherata di una Proloco. Ecco, le ricostruzioni sia dei costumi sia degli ambienti sia delle situazioni storiche hanno un rigore assoluto. Sì, molto, anche da questo punto di vista sono molto molto secondo me efficaci, anche perché grazie all'ampliamento del mercato internazionale ottenuto proprio grazie a strumenti come Netflix e a Infinity, tutti i grandi contenitori di serie, il mercato soprattutto delle serie anglosassoni equivale al mondo intero, e quindi questo fa sì che possano esserci delle produzioni molto molto ampie con grandi investimenti, grandi proprio ricostruzioni storiche, tutto quello che serve appunto per dare un'idea di polifonia e di meraviglia anche in certi casi. L'altro ospite è Dario Maggini. Dario Maggini, buongiorno. Buongiorno. È un autore, un producer, ma soprattutto parte del suo lavoro è quello poi di promuovere queste serie. Tu fai le campagne di promozione, quando vediamo annunciata una serie televisiva ci fa venire voglia, tu sei tu che confezioni questo tipo di idea. Sei d'accordo con che dice Liviano D'Arcangelo, soprattutto che è una nuova forma di narrazione che supera quella che è la letteratura, il romanzo, i telefilm oggi? Ma è una nuova forma di narrazione che sta sicuramente scardinando qualcosa a cui siamo abituati. Insomma, per lungo tempo c'è stata una specie di ambiguità nel termine di televisione, no? La televisione veniva, era una parola che veniva usata anche per identificare l'oggetto. Il televisore. Probabilmente, ho comprato una televisione nuova. Probabilmente siamo in un momento in cui anche con il prodotto televisivo assistiamo a ciò che è avvenuto in altri ambiti come la radio, sicuramente come la musica, in cui il prodotto è un fluido che esce dal contesto a cui è stato costretto. È la morte dell'hardware, sta avvenendo questo in televisione. L'hardware non c'è più. Per vedere la televisione, come erroneamente ancora diciamo, non c'è bisogno del televisore. Non serve più. Quindi. È qualcosa che è in atto da anni con YouTube, con diciamo diffusione più o meno legale di prodotti. Ma con Netflix per la prima volta questo nuovo utilizzo è certificato. L'offerta Netflix è qualcosa che ti segue sul televisore smart, che per cui non è più il vecchio oggetto, sul computer, sull'iPad, sul telefono. Se proprio sei disperato anche sullo smartphone. Sullo smartphone. Ecco, tu, prima facciamo una riflessione, però questo va detto come fenomeno di costume, che in realtà questi grossi gruppi che sperimentano nuove forme di fruire il prodotto della creatività e dell'ingegno dovrebbero cominciare a testare partendo dall'Italia i loro prodotti. Da noi sulla fruizione a TV tipo Netflix si è creato un fenomeno che credo sia unico nel nostro paese per quello che ti risulta a te. Ci sono tante persone che in realtà se lo guardano a sbaffo da un anno, perché sai, il primo mese è gratuito, basta avere un account di posta elettronica di quelli. Ma anche da più di un anno, perché l'offerta italiana di Netflix c'è da un anno. Ma insomma, era pieno di abbonati Netflix anche negli anni precedenti che cambiavano la localizzazione del proprio computer e riuscivano ad accedere ai cataloghi americani, a tutti i cataloghi. E tuttora chi non è accontentato dal catalogo italiano si cambia il DNS. Sì, ma soprattutto si guarda mese dopo mese sfruttando l'occasione, che è un'occasione molto interessante. Il primo mese è gratis, puoi vederlo gratis, poi decidi. Si prende un mese gratis, poi scade quel mese, ti fai un altro account di posta, ti riprendi un altro mese gratis e avanti un anno. Ti fai, cioè utilizzi gli account di posta che hai da anni per fare pratiche probabilmente simili, no? Per accedere a promozioni di servizi di vario tipo. Cosa che per la tua esperienza Nel Regno Unito esisterebbe l'idea di guardare a scrocco un telefilm attraverso un servizio così, anche perché poi costa anche abbastanza. Vabbè, sul rapporto fra TV e pagamento del servizio televisivo in Italia credo ci sia una coscienza abbastanza... Beh, io mi ricordo le prime schedine che si autoprogrammavano quando arrivò la TV satellitare in Italia, cominciò il commercio e lo spaccio di scatolette per programmare la scheda Ptarock. E poi il bello è che l'offerta Netflix contiene la possibilità di una fruizione multipla nella versione premium. Con 4 euro te ne vedi due su due tele, puoi vedere due persone. Ma non basta, evidentemente. Niente, non basta, non basta mai. Da quanto tempo sei qui? A San Giunipero? Un paio di mesi. Voglio restare solo per divertirmi un po'. Sono una turista, come te. Credo che tu mi abbia deflorato. Ti avrei deflorato? Ma che fai? Parli come Shakespeare. Falla finita. Ma hai avuto delle storie, giusto? Non avevi anche un fidanzato? È complicato. Sì, direi. Quando l'hai scoperto? Che ti piacevano le donne? Mi piacciono anche gli uomini, in realtà. Pari diritti. Una delle costanti che presentano spesso le società del futuro, non un futuro lontanissimo, un futuro anche abbastanza recente. Io sto guardando Continuum, che parte all'idea di un 2070, quindi non è un futuro lontano, con un andirivieni nel tempo. E quello che notiamo in queste società, sono società totalmente detabuizzate. Possono esistere dei regimi totalitari basati sulle multinazionali, sul profitto, però non c'è discriminazione razziale. Vedi persone di tutti i tipi, tutti i generi che convivono tranquillamente, senza porsi nemmeno il problema. Non c'è nessun tipo di pudicizia o di tabù. In questo caso San Giunipero sono due, una ragazza molto sprovveduta, molto semplice, acqua e sapone, che incontra in una discoteca una vamp. Non a caso questa è una ragazza, l'altra è con la pelle abbastanza colorata. E improvvisamente scoprono fra di loro di avere una passione, si amano e comincia una grande passione fra due donne, ma senza che nulla separi questa passione fra due donne, qualsiasi altro tipo di passione. Il vero meccanismo, non voglio fare lo spoiler, che questo luogo fantastico in cui si incontrano queste due ragazze non appartiene poi tanto alla realtà come noi intendiamo. Giancarlo Liviano d'Arcangelo, rimane anche queste due note che ho fatto adesso come una possibilità di leggere in maniera profonda il nostro mondo nelle sue punte più avanzate, nelle punte anche più civilizzate. Ma assolutamente, io credo che grandi meriti di alcune serie TV che hanno l'ambizione appunto di raccontare la contemporaneità sia proprio quello di indagare soprattutto il rapporto che esiste ormai tra uomo e tecnologia, nel senso che forse siamo arrivati già al momento in cui queste serie, soprattutto Black Mirror o anche Westworld, lo raccontano molto bene, in cui l'uomo in qualche modo non considera più la tecnologia come un suo strumento da mettere a disposizione dei propri sogni umani, ma al contrario è diventato quasi macchina delle macchine, no? E queste serie hanno il grande merito di comunque porre almeno il problema su questo aspetto. Appunto sono le grandi serie internazionali dove ci sono grandi investimenti, dove l'immaginario appunto quello anglosassone è spostato al massimo della sua potenza. Come dicevi tu giustamente prima, non è il caso purtroppo del nostro paese, dove invece molto spesso si continua a raccontare veramente uno specchio molto semplificato della nostra società. Tu pensi, viviamo in un paese dove ancora un soggettone come Bello Figo non può fare i concerti perché la gente dice: ah, infame, dici non paghiamo l'affitto. E vediamo nelle serie che vengono dal Regno Unito una società totalmente priva, avrà altri problemi, ma almeno il problema della discriminazione non esiste, non c'è proprio. Tu, ti ho già vista da qualche parte. Altairs, sei l'amica di Kelly? Sai dove posso trovarla? Perché dovrei saperlo? Non sei un suo amico? Sì, lo è. È passata qui? No. Anche tu, eh? Wow. Senti, cercala in un'altra epoca. Negli anni 80 o 90, magari anche nel 2002. Ne vale la pena, giusto? Cambiano anche le postazioni dei videogiochi. In quelle più lontane Ci sono i biliardini, andando avanti sono i primi videogiochi con Pac-Man, poi fino ai videogiochi di ultima generazione. Cosa ne pensi, Dario Maggini, di questo giocare con la fantascienza che più non ha più le radici in qualcosa di impossibile, di lontano, di improbabile? La fantascienza già la stiamo vivendo e queste serie ci fanno capire che noi siamo già in un'epoca fantascientifica. No, quello è il grande problema della fantascienza, che non ha più, cioè sembra essere stata superata dalla realtà stessa, soprattutto per le ultime generazioni, quelli come me, insomma, ho 47 anni. Ho vissuto dal ricordo in bianco e nero alla connessione totale in ogni momento della giornata, il che vuol dire che mi è arrivato tutto ciò che la fantascienza mi ha promesso. Il comunicatore di Star Trek era in fondo era un cellulare, no? Certo. C'era l'iPad su 2001, Odissea nello spazio. Certo. È arrivato tutto, mi devono dare il teletrasporto, la macchina del tempo e non so cosa, e vedere finalmente gli alieni. Ci mancano soltanto queste cose: teletrasporto, macchina del tempo e gli alieni. Sono i tre grandi enigmi che ancora l'umanità non ha risolto. Per il resto abbiamo già vissuto. Quando è avvenuto questo, il racconto fantascientifico ha dovuto rivolgersi all'interno della soggettività. Tra l'altro in una dinamica che è quella poi di cui vengono accusati, cioè l'esito di cui vengono accusate le nuove tecnologie, di isolare e produrre una società di singolarità che non ha più, nonostante siano tutti connessi, non hanno più nulla a che fare l'uno con l'altro. Però ecco, il merito di queste serie è che confezionano l'attualità. Siamo arrivati a un punto, mentre abbiamo una televisione generalista che sembra congelata in epoche ormai passate, per fornire appunto il mondo fantastico, il paese dei balocchi perenne nel tempo dell'ottantenne che la guarda. Queste serie perlomeno ci fanno capire il fantastico della nostra contemporaneità. Ci sentiamo tra un istante. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Melog, cronache meridiane. Accelerazione fino a 2.2, sempre che manteniate il comfort dei passeggeri. Delos è la vacanza del 2000, oggi. A Delos voi potete scegliere la vacanza che voi volete. Nel mondo medievale, antico romano, e nel mondo del western. I robot di Westerlandia sono là per servirvi e per darvi la più singolare, originale vacanza della vostra vita. Abbiamo una grande vacanza per voi. Lo ricorderete, questo era un film del 1973, il titolo che perlomeno avevamo noto in Italia era Il mondo dei robot, in realtà il titolo originale era Westworld. Nel 73 immaginò che c'era un grande parco a tema, dove andavano una sorta di umarelle, dei viscidoni bestiali, popolato da androidi esattamente uguali agli esseri umani, inconfondibili da esseri umani, quindi perfettamente simili a esseri umani, che si muovevano in delle aree a tema. C'era un'area medievale, un'area dedicata a, diciamo, all'antica Roma, qualcosa del genere, e un'altra dedicata al Far West. E questi potevano fare quello che volevano, potevano ammazzare chi volevano, tanto erano dei robot, potevano stuprare le donne, avere atti sessuali, insomma si sfogavano dei veri animali. La sera riprendevano i robot feriti, li riportavano nella sala manutenzione, li aggiustavano, il giorno dopo ritornava tutto uguale. A un certo punto, come sempre avviene, da quando l'uomo ha rappresentato le sue creature semoventi, le imitazioni dell'uomo, il golem che lui creava in maniera impropria, i robot si ribellano, comincia una schiava a non accettare le turpi attenzioni sessuali, una ancella medievale di una sorta, adesso non mi ricordo bene, di un visitatore. E poi c'è la scena indimenticabile, Yul Brynner, che è il robot pistolero che non muore mai, anzi rimane bruciato, scheletrito, rovinato, e fa una strage perché i robot improvvisamente si ribellano. Beh, il mondo dei robot è diventato anche una serie di telefilm, un film appunto chiamato Westworld, dove tutto è concesso, una serie americana che è tuttora in produzione, che riprende proprio il tema dell'antico film. Naturalmente è tutto più tecnologico, tutto più sottile. L'intuizione geniale degli anni 70 diventa qualcosa di molto più profondo. Sai dove sei? Sono in un sogno. Esatto, Dolores. Sei in un sogno. Hai mai messo in dubbio la natura della tua realtà? Benvenuto a Westworld. Nessuna spiegazione, nessun opuscolo guida. Tutti i nostri ospiti sono qui per te. In questo mondo, tu puoi essere chi vuoi. Sei vera? Se non sai capirlo da solo, ha importanza. Mondo! No! Per questo comportamento siamo oltre una semplice anomalia. Lo vediamo quasi in soggettiva degli automi, che in realtà oggi sono androidi avanzatissimi, sono esseri umani da tutti i punti di vista, che vengono ogni volta che termina l'avventura, cioè ogni volta che viene il visitatore, stupra la donna, ammazza l'uomo, ricondizionati, riprogrammati, gli viene cancellata la memoria e risono nuovamente pronti a svolgere il loro compito. Però a un certo punto questo film ha un valore quasi metafisico, molto più profondo, ci fa riflettere su tante teogonie, tanti miti, tante costruzioni che gli uomini nella loro storia hanno sempre fatto sull'origine del mondo, sugli dèi, da dove veniamo. A un certo punto noi esseri umani, i produttori di questo mondo, i creatori, gli ingegneri, i programmatori, in realtà sono dèi, sono gli dèi. Sono loro che stabiliscono le regole del mondo in cui collocano questi automi. E gli automi cominciano naturalmente, come sempre accade, ad acquisire coscienza. Conservano della memoria profonda delle loro avventure, quindi si comincia a creare il ricordo, si crea il ricordo, si crea la coscienza e a tutti gli effetti cominciano a farsi le domande su cosa sia il mondo e cosa siano i creatori del mondo. Dario Maggini, che ricordo è un autore, producer e soprattutto si occupa della promozione delle serie televisive, cioè di tutti gli spot, le campagne quando lancia una serie televisiva. In questa evoluzione Westworld cosa ci vedi, tu che sei anche appassionato di fantascienza? Ma il caso di Westworld, che appunto ricordiamo era un remake di un film abbastanza famoso che fece epoca anche come film di genere, perché insomma la figura di Lubriner che riprendeva il suo personaggio dei Magnifici Sette e ne faceva un simbolo malefico. È interessante perché all'interno contiene una serie di cose attualissime, anche il film lo aveva, cioè questa idea di prendere una realtà preesistente, anche tragica, e farne intrattenimento, che credo sia una cifra totalizzante dei tempi in cui viviamo, dove è possibile, dalla ricostruzione medievale all'allestimento nei ristoranti, in quello che fino all'industrializzazione di nostalgie che non abbiamo mai avuto. Io vedo ragazzini che nostalgici degli anni 80, degli anni 70 e nati nel 95 magari, che hanno, immaginano un qualcosa che loro non hanno mai vissuto e ne hanno nostalgia e lo cercano come merce all'interno delle produzioni attuali. Mio figlio mi ha costretto a scaricargli tutti i giochi di Lara Croft, i primi, quelli che nemmeno più esistono, i computer col gusto di vedere magari una roba meno perfetta, bruttissimi, cioè, quanto erano belli, papà, ti rendi conto quando io giocavo con questi giochi? Ci gioca come noi, se apriamo lo scatolone dei giochi vediamo il Pinocchietto, c'erano da piccoli, Allegro Chirurgo, queste cose qui, cioè la lacrimuccia. Allora gli viene la lacrimuccia per un videogame di 10 anni. Sì, ma magari per l'imperfezione programmata dall'ufficio marketing, come i filtri Instagram che rovinano l'immagine, perché altrimenti sarebbe troppo bella e meno credibile. Andiamo avanti con Westworld. Qual è la tua motivazione? Incontrare il mio creatore. Sono terrorizzata. Sento spazi che si aprono dentro di me. È come un edificio con stanze che non ho esplorato. Forse c'è qualcosa che non va in questo mondo. Qualcosa che si nasconde sotto di esso. Ma vediamo se mi segui nella provocazione, ma questa è metafisica pura. Questi sono degli esseri cominciano a accorgersi dell'esistenza del trascendente. Per loro la trascendenza è semplicemente quei ricordi che una memoria non ben resettata gli lascia come residuo nel loro hard disk personale. E cominciano a vedere questi grandi demiurghi, questi tecnici che le resettano ogni volta, come quello che si facciano le domande, sono fatti sempre i grandi mistici, i grandi scrittori appunto di teologia. No, infatti, senza ombra di dubbio, la metafisica pura è quello che secondo me, a mio modo di vedere, manca totalmente nella sta grande produzione letteraria, non soltanto nel nostro paese, ma anche insomma in quella che si può definire una produzione più globale, proprio perché appunto si va verso il proponimento di prodotti sempre molto o narrazioni bigotte, esatto, nulla hanno a fare bigotte, oppure storie di santi, di papi, di miracolati, sì, conversioni, che nulla a che fare con la metafisica, esatto, ma oppure di prodotti che hanno già sono già totalmente precodificati e quindi insomma non hanno nessun interesse di scoperta del mondo. Invece spesso nelle serie televisive, appunto come Westworld, che sono tra le più ambiziose anche se vogliamo, abbiamo invece una ricerca di metafisica che poi avviene invece in altri campi nella vita pubblica. In Italia noi sappiamo che c'è un istituto tecnologico a Genova dove si sta realizzando per esempio un robot che si chiama iCub e che appunto è formulato per apprendere dalle proprie esperienze, cioè rielabora i dati della propria esperienza e si forma una coscienza proprio come se fossi un bambino. Queste cose sono già all'ordine del giorno delle nostre esistenze, soltanto che molto spesso purtroppo la letteratura, specialmente in Italia, non se ne occupa ed è completamente distratta. Le serie televisive invece vanno verso questa direzione e in qualche modo io nella clip iniziale di Westworld ci ho visto tantissimo di parossismo dell'attualità in qualche modo. Certo. Dario Maggini, tu che conosci l'evoluzione e varie fasi della narrazione fantascientifica, il telefilm di cui stiamo parlando vanno oltre quello che pensavamo fosse l'ultimo passaggio, quello da Matrix in poi, la creazione dei mondi virtuali, ci sono tanti fatti, grandi idee sulla realtà virtuale, poi non è accaduto nulla di tutto questo, tutta immaginazione. Oggi la fase è proprio questa, questa sorta di connubio fra uomo e macchina che arriva a punti talmente elevati in cui la macchina precede l'uomo anche nelle considerazioni che più lo rendevano umano. Sì, poi riallacciandoci a quello che dicevamo prima, e specificamente poi nel caso di Westworld, c'è questo racconto di questa esigenza che tutti abbiamo, magari non ammettendolo, di liberalizzare istinti, visioni che abbiamo che i social network ci permettono erroneamente, ci illudono di poter fare, tant'è vero che le nostre personalità social forse sono differenti, tutti diventiamo violentissimi su Facebook insultando persone che non... Cioè il nostro parco a tema per sfogare gli istinti profondi oggi sono esattamente come avviene in Westworld, lì puoi fare qualsiasi cosa, non sei tu l'alias, ma l'alias è il mondo che ti circonda. E poi pensa che l'intuizione era degli anni 70, che l'uomo avesse bisogno di questa sorta di circo della bestialità, era degli anni 70, anni in cui pensavi che il mondo fosse lontanissimo dalla tecnologia, lontanissimo da questi tipi di astrazioni, eppure qualcuno già pensò a questo. Ma infatti c'è anche in Black Mirror, di cui parlavamo prima, nel racconto della soggettività totale che c'è in queste storie, di fatto la narrazione poi si va a occupare di realtà primordiali, del tradimento, del lutto, della rispettabilità sociale. Non c'è, la tecnologia è solo una scusa per portare alla luce cose antichissime. Come sempre, la destinazione d'uso primaria di ogni gadget elettronico viene travisata e usata per altre cose. Nessuno probabilmente immaginava che internet sarebbe servito a quello a cui oggi serve, quando l'hanno pensato e immaginato. Probabilmente nessuno immaginava che internet sarebbe diventato il regno dell'irrazionale. Era la frontiera dei nerd, degli studenti di materie scientifiche, ed è diventato la sorgente di qualsiasi deformazione della percezione. Era la connessione fra quelli che progettavano il mondo. In realtà è diventato il tracollo totale del mondo. Ci sentiamo fra un istante. Melog, cronache meridiane. Santità, i suoi peccati. Non ho nessun peccato da confessare. Sono una contraddizione. Come Dio. Chi sei tu, Lenny? Buono e cattivo. Dicono che lei sia un santo. Sei solo un ragazzo dagli occhi azzurri. Io avrei dovuto essere il Papa. The Young Pope, il Papa di Paolo Sorrentino, ha diviso le platee. È una storia divertente, c'è tutto Sorrentino, c'è i suoi slanci irrazionali, cioè i suoi personaggi fantastici, le sue storie un po' slabbrate, però alla fine te le guardi volentieri. Soprattutto, probabilmente, all'utente medio televisivo ha dato molto fastidio che una televisione che è infarcita di storie, di vite di papi, come uno dei suoi dei filoni essenziali della televisione popolare per eccellenza, faccia vedere un papa innanzitutto molto figo, strafigo, che sembra quasi cattivo, un papa che è totalmente atipico. Dario Maggini, tu l'hai visto? Ti è piaciuto? L'ho visto e mi è piaciuto, cioè l'ho guardato come guardo le cose di Sorrentino. In effetti non ho sentito amanti di Sorrentino delusi da The Young Pope, o il contrario, ha confermato quelli che erano le convinzioni. Beh, iper sorrentiniano. No, ma infatti è un caso interessante, tra l'altro non italiano, perché è una coproduzione internazionale parlano in inglese gli attori, da un premio Oscar. Poi aggiungo, The Young Pope è un caso interessantissimo di miscelamento fra mondo televisivo e mondo cinematografico, che per decenni sono stati separati. Era difficilissimo vedere un attore di cinema interpretare un ruolo televisivo se non a inizio carriera o a fine carriera. Adesso si moltiplicano le serie di autori importanti con attori importanti. Tanto è vero che probabilmente i risultati ottenuti qualitativamente sono, in molti casi sono migliori, anche per possibilità di raccontare cose non presentabili al cinema a platee planetarie che sono necessarie per giustificare un impegno produttivo di quel tipo. Tu Giancarlo Liviano d'Arcangelo l'hai visto? Sì, l'ho visto e devo dire che secondo me il suo pregio è quello di rompere per l'appunto tutta una serie di obblighi codificati della fiction italiana, visto che poi il regista è italiano, e che è presentare appunto qualcosa che in Italia era sostanzialmente impensabile magari su un canale nazionale, ovvero quello di vedere anche sulla pedofilia, cioè un'esposizione crudissima ma realistica di cardinali implicati in casi di pedofilia, in storie omosessuali fra altri cardinali, qualcosa che ma nemmeno con l'esorcista sembra permesso di accennare soltanto nelle nostre fiction dei papi o dei santi. Assolutamente. Da un punto di vista invece proprio legato alla qualità dell'opera, mi sono piaciute moltissimo alcune parti, soprattutto visive, molto meno invece un difetto secondo me di scrittura molto forte che si ritrova spesso in Sorrentino ma in generale anche nelle opere italiane, cioè un desiderio perenne di vaticinio, quindi di dire sempre frasi molto effetto, quindi di proprio essere quasi... Ma una scrittura compiaciuta. Sì, una scrittura abbastanza compiaciuta e che soprattutto veramente cerca in ogni minuto di dire una verità sul mondo che ovviamente non si può dire andando in over proprio. Però già sta preparando la seconda serie, quindi ha funzionato. Ma immagino che poi nel mondo una serie del genere in cui appunto si squaderna completamente una visione, si entra soprattutto almeno in maniera ricostruita ma sempre con grandissima efficacia all'interno di un luogo come il Vaticano, non possa che interessare tantissimo all'estero. Quindi l'atteggiamento generale delle gerarchie è stato quello di ignorarlo, fingere che non ci fosse, tenere in basso profilo. È spietato, ma non è il film d'inchiesta fatto dagli americani sui casi giornalistici più importanti legati agli scandali della Chiesa, però è elaborato. Io credo che il tabù vero sarà vedere il Papa che fuma in una nazione che ha bandito qualsiasi tipo di comportamento. Beh, in Vaticano non c'è la legge che non si può fumare, lui fuma in Vaticano. No, ma non c'è la legge che non si può, cioè, che non si può fumare nei film, nei telefilm americani. Sì. Perché non c'è, a meno che non siano personaggi connotati, fumano su Mad Men, dove devono mostrare un mondo che adesso non esiste più, fumano su quando sono criminali. Difficile vedere protagonisti. Quindi è una regola del cinema, del telefilm americano, che non si può fumare. È una regola non scritta, perché fa parte della sensibilizzazione totale che negli Stati Uniti c'è verso... Basta farsi chi ha viaggiato negli Stati Uniti, insomma, vede capannelle di fumatori fuori dai palazzi che sono trattati veramente alla stregua dei disperati. Sì. Beh, un po' anche da noi, fuori dai ristoranti, i disperati che fumano fanno un po' pena, d'inverno soprattutto. Qui vanno fuori, si fanno una sigaretta, poi rientrano con quell'alone di fumo, con quell'aria di aver consumato qualcosa di peccaminoso. Andiamo avanti, propongo un'altra serie. Come ti chiami, ragazzo? Nas, ma voi non capite. Noi due dovremmo parlare, ok? Così sarà tutto più chiaro, solo io e te. Lei ti ha detto dove voleva andare? In spiaggia. Dove in spiaggia? Ok, Nas. Ascoltami. Non parlare con anima viva, mai più. Se ti fanno una domanda, una qualsiasi, come stai, bella giornata, vero? Rispondi, non lo so. Parla col mio avvocato. Ecco, questo è The Night Of, cosa è successo quella notte, un'altra serie degli Stati Uniti d'America del 2016, una miniserie, 8 puntate, non ho viste tutte, sono meno documentato rispetto ai miei ospiti sicuramente. Il protagonista, in fondo, è il perno su cui gira tutta la serie, è John Turturro, che è un avvocato, che ha una sorta di psoriasi, malattia della pelle terribile, tanto si copia di pustole, si deve mettere degli, cioè c'ha un problema di insofferenza. Dario Magini. Sì, ha una, così, una somatizzazione delle sue contraddizioni interiori, cosa che seguirà. È allergico poi al gatto, non vuole liberarsi del gatto, c'ha tanti problemi. Sì, ma cosa che segue poi il suo percorso anche di cambiamento interiore nel corso della storia. Lui è ovviamente un avvocato squattrinato, pronto ad accettare tutto, che non vuole mai andare a dibattimento, e alla fine sarà costretto ad affrontare la giuria e la psoriasi. Sì, ma con i guanti. Con i guanti, col domopac sui piedi e la cremina nivea. Per, e qual è il valore di questa serie? Beh, questa è una serie. Intanto l'hai fatta molto bene. Come John Westwood, anche questo è un remake, perché è un remake di una serie britannica di un po' di anni fa. Ed è singolare vedere come le serie con maggior credito autoriale siano spesso dei remake, come se in fondo non si inventa niente di nuovo. La sostanza si fa forma, in questo caso la sostanza si fa nuova forma. Per quanto mi riguarda, io l'ho vista tutta, mi è piaciuta moltissimo, ed è, mi sembra veramente lo stadio estremo di sfida che la televisione fa al cinema. C'è una scrittura solidissima, sono come 8 film, un racconto visivo che non teme confronti, che forse i produttori italiani dovrebbero vedere, perché non possono, non entrano in gioco budget enormi, effetti speciali, c'è solo solidità, c'è solo mestiere. Certo, come facciamo compatire poi quando sono la tipica serie italiana con quei dialoghi finti in cui si vede che parla ogni attore parla per conto suo in situazioni diverse, campo e contro campo, se esempio uno di spalle e uno che tutti parla. Rigidissimi, non sanno come entrare in una stanza, non sanno come tenere in mano un libro. Stanno sempre fermi, quando parlano sempre uno di spalle, chissà perché. Perché uno di spalle e l'altro che ci parla, e poi si rivede il campo contrario. Perché è il capitolo 2 del manuale di inquadratura cinematografica, il dialogo si fa a quel modo, qualsiasi altra soluzione è troppo impegnativa. Ma sono tutti uguali, non cambia nulla. Voltati a sinistra, via la maglietta. Tu devi capire che quello che mi dici è molto importante. Cerca di ricordare. Posso aiutarti, ma tu devi aiutare me. A quanto pare l'ho uccisa, questo lo so. Già, a quanto pare. Ma non è così semplice, vero? Se sono fuori strada, dimmelo, avanti. Ti avevo detto di non parlare con nessuno. Tu hai visto The Night Of? Sì, l'ho visto. A te è piaciuto? L'ho apprezzato molto, proprio perché, come dicevamo, a parte questa... Ecco, tu da scrittore, la solidità della storia... La solidità della scrittura è veramente elevata. Poi veramente in ogni momento si respira di cinema, e in questo caso la serialità è sfruttata molto bene, proprio perché il minutaggio maggiore consente appunto un maggiore approfondimento dei personaggi, di aprire poi delle finestre narrative molto interessanti, permette appunto di... dilatare in maniera molto positiva e polifonica il focus della storia. Ritornando a quello che dicevamo prima, poi la cosa bella secondo me è che io riscontro ormai quasi in ogni tipo di contenuto, quando faccio dei confronti e tento appunto di cercare cosa secondo me può essere di qualità o meno, è proprio questa restituzione di una realtà che deve necessariamente ormai uscire dalla codificazione, che è quella del racconto della realtà che noi abbiamo tutti i giorni, magari anche sui media, no? Invece i prodotti italiani questo tipo di procedimento non lo fanno praticamente mai. Abbiamo sempre invece un processo di semplificazione della realtà. Basta andare su Rai 1, vedere quello che c'è, viene presentato anche come prodotto di qualità. Mi viene in mente quello che c'è adesso, ad esempio La mafia uccide prima d'estate, uccide solo d'estate di Pif. Lì abbiamo veramente una semplificazione, laddove il mondo dei bambini viene presentato in modo molto convenzionale, dove l'unico scopo sembra quello di diventare coppia con dei bambini di pari età. Invece il mondo degli adulti è totalmente semplificato, i mafiosi sono delle macchiette, tutto viene rappresentato in maniera veramente liscia come un bicchiere d'acqua. Ecco, ma voi pensate che la TV generalista, per chi è prodotta, per chi è fatta? Questo che Kengo Kusama centrale rispetto al mondo dei media. No, ma questo è chiaro. Il problema è che poi se ne parla come se fossero dei prodotti di grandissima qualità. Sì, poi alla fine puoi pensare quello che vuoi, a parte Pif, che può piacere o non piacere, in fondo è un ragazzo anche simpatico. Noi abbiamo parlato questa mattina di un prodotto televisivo che è fatto per la televisione soltanto come cornice, come metafora. In realtà è un prodotto da fruire in mille maniere, con dietro un cervello, un pensiero, una scrittura, un occhio sulla contemporaneità. La televisione generalista di cui stiamo parlando altro non è che un prodotto ormai residuale e per un pubblico residuale di vecchietti che amano avere qualcosa su cui abbioccarsi la sera per essere dolcemente accompagnati nel mondo dei sogni, che naturalmente è tutt'altra cosa. Alla prossima!